libertà. È scritto dentro sangue che ogni uomo ha. Mi hai detto amalo e non chiedermi perché, e non permetter mai che ridano di te. Io a 7 anni mi portasti dagli eroi, che non sapevo quel che avrei capito poi. E in quel momento estremo che mai scorderò, sulla collina la tua voce si fermò. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. E oggi sono 100 anni e sento che ti avrei voluto qui con me. Qui come la mia sciarpa tesa sotto alla pioggia. Qui come questo sentimento che mi spezza le vene dentro me. Dentro me, come il ricordo incancellabile di te. E tutto quello che hai lasciato resterà scritto nel sangue della nostra identità. Nel tempo contro ogni dolore correrò, è un sentimento a cui non riesco a dir di no. E oggi che torno sopra il monte degli eroi, ascolto un vento che parla sempre di noi. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. Io ci sono 100 anni e sento che ti avrei voluto qui con me. Qui come la mia sciarpa tesa sotto alla pioggia. Qui come questo sentimento che spezza le vene dentro me. Ogni tua parola, quel tuo racconto gonfiava i tuoi occhi, mentre ascoltavo col groppo alla gola. Sulla collina il tuo sogno è caduto, ma nel mio cuore ha trovato dimora. E torna il vento a soffiare sul drappo, che porta il braccio mio sventola ancora. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. Io ci sono 100 anni e sento che